24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Stiamo compiendo un passo storico totalmente in linea con la storia del PD. Noi stiamo arrivando a dire che il Partito Democratico, insieme ai partner di governo e ai partner istituzionali di questo impegno del patto del Nazareno, dice che la legge elettorale definisce un vincitore, in questo caso con la modifica che abbiamo proposto in larga parte condiviso, una lista vincitrice, quindi un partito. Che forse ci siamo, Forse ci siamo. Alleluia. No. No. Sentite i violini. Ci siamo. Ci siamo forse. L'accordo sulla legge elettorale all'ottavo incontro tra Renzi e Berlusconi, sempre senza fotografie, questo lo sottolineiamo, non esiste una fotografia, si vergognano, non lo so, non esiste mezza fotografia. All'ottavo incontro, forse, ci siamo sull'accordo sulla legge elettorale. E allora oggi vogliamo iniziare così. È sicuro, entro fine anno la legge elettorale approvata al Senato e poi in via definitiva alla Camera entro marzo. Intanto siamo nell'ottantesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Forse ci siamo e circolano già le date. Circola una data, 24 maggio le elezioni. Oggi leggevo su Repubblica e ovviamente definisce fantasie tutto questo Renzi. Ma si sono incontrati, forse c'è l'accordo, per la verità su alcuni giornali come Libero, il giornale l'Italicum tiene così, ma come, ma neanche l'ottavo incontro, non ce la faremo mai, non che le vostre vite siano fermate da questa cosa, voi continuate, lavorate, crescete i figli, fate le vostre cose, le vostre commissioni, andate avanti come se nulla fosse e non vi preoccupate, è normalissimo, come tutti. C'è la legge elettorale in Italia oppure non c'è la legge elettorale in Italia, in Birmania vivono lo stesso, in Cina vanno avanti a produrre, in America guardano al futuro lo stesso, in Francia, in Germania, in Danimarca non si fanno tanti crucci e vanno avanti comunque. Sono le 6:33 minuti, queste 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è tornato in regia. E voi ci siete? Al 349-238-6666 condividete questo alleluia che abbiamo messo all'inizio, ma tanto, chi lo sa, staremo a vedere. Dai, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. E che dire, ci sono tante cose, c'è questa, la legge elettorale, c'è la CGIL che mette lo sciopero il 5 dicembre, chissà se per fare il ponte, chissà se per festeggiare il mio compleanno il 5 dicembre, forse l'hanno fatto per me, voglio subito chiederlo a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, forse è questa la chiave di lettura. Ma sì, sono tutti sotto casa tua, dai. Il mio compleanno, no, tutta la CGIL è sotto casa mia, vi ringrazio. ringrazio, vi ringrazio, ma anche no, ma anche. Ma tu sei lì. Sì, io sono sotto casa tua, ma tu sarai lì a lavorare. Ah, beh, io sarò a lavorare, certo, è ovvio. Allora Maurizio Tortorella. Una volta saranno al posto sbagliato. Eccolo là, il vice direttore di Panorama, e insieme a lui voglio salutare, ritorna con noi il direttore Angelo Maria Perrino, direttore Affari Italiani.it. Buongiorno direttore. Eccoci. Buongiorno a tutti voi. Allora, qua c'è da parlare della legge elettorale. Voi condividete, Perrino, va bene l'alleluia iniziale, oppure siamo stati un po' troppo enfatici? Ma io direi buoni passi avanti, si caracolla zigzagando. Oh, porca miseria, allora alleluia non va bene, alleluia è un po' più trionfale, un po' più abemus, nazarenum, invece no. Tortorella, tu che dici? Ma come diceva Brunetta ieri, in realtà in questa maniera si butta a mare quello che è stato fatto con la prima lettura della legge, quindi si riparte da zero fondamentalmente. Vabbè, ma c'è questo alleluia, c'è questo no, siamo ancora... Guarda, posso dire una cosa che sì. Ti stupirà? Ieri e oggi io passerò il giorno a guardare metaforicamente in alto, nel senso non che guardo alla pioggia che cade pensando al Seveso che esonda o quant'altro, ma penso soprattutto alla cometa, perché una cosa quella di ieri la cometa Rosetta, cioè... parte una cosa sconvolgente. Oh, dice, ma che mi frega della legge elettorale? Sì, infatti ecco, posso permettermelo, scusami tanto, va bene, ma va bene, ma infatti, cioè, voglio dire, ma ci sono altre notizie sui giornali, il Corriere della Sera, no, ma l'idea è che un aggeggio di metallo parte 10 anni fa E arrivi su una cometa. Arrivi su una cometa oggi, ieri, è una cosa che mi scoprirà. È affascinantissimo. Ma infatti oggi giustamente i giornali li mettono in prima pagina questa notizia. Vabbè, insomma, abbiamo già derubricato la legge elettorale per quello che è. No, ma non mi permetto, scusa. No, ma no, fai pure. Ma qui, guarda, figurati, la legge elettorale soprattutto. La cometa si lega al Nazareno, Sì, perché? Per la storia di Gesù, della stella cometa, insomma, è tutta una simbologia cattolica, siamo sempre lì, no? Cioè, in realtà stiamo parlando di legge elettorale e la cometa. Mancano il bue e l'asinello. Sì, esatto. Vabbè, sentiamo capire chi è il bue e l'asinello tra Renzi e Berlusconi. Sì, io mi stavo già annoiando lì quando ho sentito Renzi in apertura. Ragazzi, ma cosa gli è successo sulla logorrea? Vabbè, è sempre stato un po' così, ma va sempre meno al punto, fa dei giri di parole, vabbè, che dobbiamo fare? Ma io ti ricordo che avevo lanciato questo hashtag Renzi come una ciclette. Sì, è vero, che pedala da fermo, no? Sì. Ecco, mi pare che questo confermi tutto ciò, però devo dire che un piccolo movimento c'è. I due non sono d'accordo nel merito, però si giurano fedeltà lunga e costante, e questo, al di là dello scherzo, per l'Italia è una notizia, diciamo, piaccia o no, ma insomma parrebbe che si sia riottenuta una certa stabilità e che consente forse di eleggere il capo dello Stato prima di ogni altra cosa. Tra l'altro anche qui il giornale ha una data, il 20 gennaio, Napolitano si dimette, non so perché questa data, da dove nasca, da perché, da cosa, però il 20 gennaio viene messo oggi in titolo a pagina 4, come dire, occhio al 20 gennaio. E lì Berlusconi guadagna un po' di tempo rispetto al voto, perché a destra sono un po' sfaldati, Renzi riesce a contenere l'opposizione dei suoi con il gioco di sponda con Forza Italia, quindi i due leader qualcosa hanno portato a casa e io credo che i mercati questo lo coglieranno. Ma non lo so, chi lo sa, questioni veramente che interessano solo tutti coloro che si interessano di politica, cioè la minoranza degli italiani. Ma visto che abbiamo il direttore di un giornale che è un giornale online, affariitaliani.it, visto che abbiamo un vice direttore di un giornale cartaceo, Panorama, caro Maurizio, voglio dedicare soprattutto a te, e se volete anche a me, a tutti, e che cosa? Il tuo miglior amico politico, chi è Maurizio secondo te? Beppe Nazionale, che ieri in Europa ha fatto la sua performance dicendo una cosa nuova, tipo mo me lo segno, ricordatevi che dovete morire. Dillo, lei è un politico. Ah, questo è un giornalista dell'API, dell'AGI che si è arrabbiato. API, cos'è? Sentite Grillo. Grazie per essere intervenuto. Grazie. Sono stato alle conferenze stampa di Putin. Vabbè, un giornalista che si lamenta, non si possono fare domande a Grillo, eh. La risposta di Grillo. Comincia a fare domande per cercare un posto di lavoro, perché tra un po' le sovvenzioni pubbliche ai vostri giornali non ci saranno più. E voi chiuderete. Poi in un'altra parte ha detto proprio così: se siete, meno male che i vostri giornali chiuderanno, Tortorella. I giornali non stanno bene, però neanche il Movimento 5 Stelle, mi sembra, perché soffre molto la concorrenza della Lega di Salvini, soffre, e poi mi pare che lui consista con il fatto che loro ormai hanno capito che l'immobilità li penalizza, perché stare immobili e non aiutare, non cooperare, non partecipare, pensare alle scie chimiche, che uno dice, boh, cosa diavolo avranno in testa, insomma... Mi pare che il movimento sia un po' in difficoltà. È un po' avvitato. Vabbè, Perrino, tu tanto dici, chi se ne frega, viva la rete, muoiano i giornali e tutti i filistei. No, per carità. No, io credo che i giornali siano morti già da un po', quelli cartacei, generalisti, nel senso morti. Le news oramai vanno sugli strumenti elettronici, la radio, la televisione, internet. E i giornali di carta arrancano, non ce lo spiega Grillo, l'ha scoperto tardi anche lui. Quindi insomma dice, però questa roba morirete, i giornalisti, no? Perché si è arrabbiato perché non voleva domande o questo. Ma sì, questo fa parte dell'acidità del personaggio, anche lui forse soffre di processi di senilità, scompare per lunghe settimane, poi ogni tanto ricompare e urla, ma oramai questo stile che aveva avuto successo un paio d'anni fa e aveva avuto ragione d'essere, con il ciclone Renzi è passato un po' in... A proposito piano. Di ciclone, sentite come definisce il patto del Nazareno Grillo, lui che con un senatore che ha fatto questa cosa, mamma mia, ecco, su questo veramente tutto il mondo dovrebbe essere concorde, ci hanno fatto fare un'inchiesta, aprire un'inchiesta alla Procura di Roma contro il patto del Nazareno. Ma cosa c'è da fare un'inchiesta? Vabbè, sentite Grillo. Cos'è massoneria? Perché non dicono che se c'è un patto scritto, cosa c'è scritto? Perché non vanno in streaming? Tre persone al buio, di nascosto, decidono le sorti di 50 milioni di italiani. Massoneria, Maurizio, il problema è che ci sarà un'inchiesta fuori, tu te lo vedi, non so, Renzi convocato da un magistrato per parlare del patto del Nazareno, Berlusconi, Verdini, Guerini, cosa c'è in quel patto? Ce lo faccia vedere, è un patto scritto, è un patto verbale. Quando la magistratura in questo paese, non parliamo poi di quella amministrativa, si occupa di tutto, quindi perché non anche di questo. Io sono talmente sconfortato che continuo a guardare in alto alla mia cometa. Quindi secondo te ci sarà? Vive, è così, ecco, la testa sulla cometa. Perché vuoi che non ci sia un magistrato che apra un'inchiesta del genere? Subito, è ovvio, garantito. Non è detto. Due o tre. Anche a Trani andranno ad aprire. A Trani, la procura che indaga. Se ti sente Brunetta, Trani, la procura che indaga sul complotto finanziario. Per rispondere a Grillo posso dire che su Affari Italiani tra un paio d'ore andrà in rete un'intervista proprio al gran maestro della massoneria. perché? Così? No, sai perché? Perché un paio di giorni fa... Sentiamo che cosa dice, dacci un'anticipazione, come legge le questioni il gran capo della massoneria. Perché il Grande Oriente aveva fatto un comunicato qualche giorno fa dicendo che era solidale con i lavoratori della ThyssenKrupp e dunque l'abbiamo voluto approfondire e spiega un po' a che punto è arrivata la massoneria. Devo dire che a sorpresa egli consiglia Renzi di aprire il dialogo con il sindacato, dunque anche la massoneria si associa. La massoneria si associa e dice a Renzi di dialogare col sindacato. Udite. Italiani tra un paio d'ore. È la massoneria che parla tramite Angelo Maria Perrino, sembra quasi una seduta spiritica. Tramite Affari Italiani, per carità. Insomma, non è una seduta spiritica. politica, ma poco ci manca. Però io vorrei capire, la domanda è secca: sapete cosa è successo, cari cittadini di Roma? Hanno beccato ancora il sindaco Ignazio Marino con la sua panda rossa in divieto di sosta sotto casa. Io come il sospetto che comincia a fare apposta per provocare, dopo le 8 multe pagate, non pagate, ancora divieto di sosta. Oggi Libero fa questo titolo: è sfigato e incompetente. Vabbè, addirittura adesso siamo alla sfiga. Tortorella, che dovrebbe fare un sindaco? Si dovrebbe dimettere per 8 multe? La moglie di Marino dice al Corriere che la chiama, dice: ma era lei la guida, fa, ma impiegate le vostre risorse per cose un po' più importanti, per favore. Risponde come Grillo. Il punto è che errare è umano, ma perseverare a questo punto è Marino, perché insomma, sì. non c'è altra spiegazione. Sì, ma sono 8 multe, c'è divieto, adesso c'è anche un po' un accanimento, adesso tutti, no, tutti alla ricerca di questa panda rossa, la pedina, no? C'era la battuta, no, sulla Prince Verde. Certo, Prince Verde tua. Prince Verde tua. Per portare la sfiga, no? Sì. E adesso panda rossa tua. Panda rossa. No, l'errore di Marino, al di là del parcheggiare o no in diritto di sosta, entrare o meno illegittimamente nella zona rossa, è quella di aver inventato la storia dell'hacker. Lì ha pasticciato un po', però sì, adesso obiettivamente dico, okay, ragazzi, ho sbagliato, scusatemi, pago le mie 8 multe. Sì, ma voglio dire, ma io dico, il mondo un pochino va alla rovescia. Adesso voglio spezzare una lancia per Marino, ma voglio dire, un sindaco che va in giro con una parte che va spesso in giro in bicicletta con una panda rossa. Siamo stati abituati per anni alle auto blu, alle scorte, cioè, e qui adesso è Perrino, lui che va in giro con una panda rossa, gli va a seguire la panda, è in divieto di sosta. Ma se seguissero anche la macchina di Perrino, dovreste scoprire che cosa succede. Io non ho l'auto, non ho l'auto, quindi non potrei concorrere. Classica gaffe mia. Comunque, la panda è in estinzione, come no? Quindi anche Marino in estinzione. Invece torna De Magistris, mi sa, perché si pronuncia il Consiglio di Stato rispetto alla sospensione del TAR. Quindi avete visto, magari ha fatto bene a resistere. Io torna nel senso che torna d'attualità, potrebbe essere di nuovo sospinto verso l'esterno, cioè invitato a ritirarsi. Io ridico ancora: Gigino, resisti. Se ho detto la prima volta, ha resistito e ha avuto ragione, quindi qua facciamo resistenza oltranza, siamo blocco collettivo per Gigino, resisti. Vabbè, ma insomma, dopo la pubblicità e il traffico vi sveleremo attraverso i giornali chi ha comprato questo sex toy, che risulta essere ormai ufficialmente un vibratore, in Emilia Romagna, a spese nostre. Posso dire una parolaccia in tedesco? Immaginatevela voi la parolaccia. 24 mattino. Salvatevi, non dall'ebola, peste del mondo, ma da Renzi e quelli che ti intorno. Ritornassi al sommo poeta, li coprirebbe con una pietra, e che levassi di ritorno rimanerebbe nello sprofondo. Marino, sapeva il mestiere più intrigante, più bello, più stimolante che ci sia al mondo. E ti sei buttato in politica a fare queste figure di merda. Sei scandaloso. Milan, te lo dico, ho appena occupato casa mia. L'ho fatto con un atto notarile. Ho un sacco di gente che non è d'accordo. La polizia vuole vederci chiaro. Sono fasi concitate, Milan. Io sventolo il mio atto notarile, ma vedo che nessuno è d'accordo. Ti farò sapere nelle prossime puntate. Ciao. Propongo una colletta per le multe di Marino e soprattutto tutti quei bellissimi autovelox dove c'è il limite dei 70, poi ti metto nel limite dei 50 l'autovelox e dopodiché ritorna il limite dei 70. Viva l'Italia! Milan combina guai, su dai racconta quello che tu sai sugli abitanti di questa città. Milan combina guai, su dai racconta quello che tu sai, i segreti di tutti gli dèi, sai tu. Pollo combina guai. Oddio, chi era Pollo? Tortorella, tu lo guardavi, di la verità. No, ero troppo grande. Com'è che si chiama Pollon? Ma cos'era poi pollo? Io non lo vedevo mai, cos'era un animale? Cos'era? Non lo conosco. Cupido. Fuori età. Tutto, Perrino, aiutami. Lorenzo Nespoli mi dice Cupido, era un angioletto. Cos'era pollo? Sai che non me lo ricordo, no? Cioè, ma ragazzi, ma se mi dite Gigrobo d'acciaio, Goldrake, Dolce Remy, Heidi, queste cose qui, ma Pollon effettivamente. Heidi, sì, ma Pollon. Io avevo dei Pollon. Di Capitan Mickey, di Black. Capitan Harlock, Zagor, grandissimo Zagor. Tex, vabbè, Tex è storico, ma Zagor è più chic, è come dire Topolino tutti, ma Braccio Diabolic. Di Ferro e Geppo. Diabolic, Diabolic. L'uomo mascherato. No, quello no. Tortorella, tu? No. No, vabbè, ma il tuo preferito, Diabolic, chi era? A me Asterix. Ma non, però tu stai parlando di personaggi televisivi. Ma no, anche un fumetto, so, Diabolic. No, il mio fumetto preferito era Asterix. Ma era un fumetto anche Asterix, non l'ho mai visto in fumetto. Come no? C'era? Era solo fumetti. Va bene. Comunque subito vedi i nostri ascoltatori, era una bimba che viveva nell'Olimpo, ecco, Pollon combina guai. Va bene, che c'è chi mi descrive evidentemente nel Movimento 5 Stelle a dire una carezza a Tortorella che ci dice che siamo in difficoltà noi al 21%. Auguri. Vabbè, e questa è la situazione. Allora, sapete chi ha comprato questo vibratore? Tra l'altro pare rimborsato due volte, uno con lo scontrino e uno col POS, quindi pagamento banco, ma ci ha presentato due scontrini, vi rendete conto? Quindi pagato 160 euro un vibratore. È stato un ex collaboratore della consigliera in questione che era stata additata all'inizio, Rita Moriconi. Si è presentato questo collaboratore a dire l'ho comprato io, e poi si aggiunge questa cosa, era uno scherzo per un amico. È sempre uno scherzo per un amico. A sua insaputa. Esatto, il classico vibratore a sua insaputa, a spese nostre. Vi faccio sentire questo. Oggi c'è, e per concludere, su Repubblica un articolo che dice che il 50% dei deputati della regione siciliana hanno già cambiato casacca in due anni. Due anni, 45 deputati su 90, Volta Gabbana. Sentite per esempio tale De Pasquale di Ragusa, cosa diceva due anni fa. De Pasquale. Questo partito democratico è un partito che fa schifo. Questo partito democratico è un partito che fa schifo! Indovina, Perrino, in che partito si sta iscrivendo questo signor De Pasquale? Non so, l'Italia dei Valori, magari, che sta tornando. No, del Partito Democratico, ovviamente. Vuole migliorarlo dal di dentro. Questo PD mi fa schifo! E si sta per iscrivere al Partito Democratico. Succede in Sicilia. Io qua non c'è più tempo, che devo fare? Devo salutarci. Tortorella, ti saluto. C'è Panorama che fa la copertina sul TFR. C'è affariitaliani.it che è un sito tutto rinnovato, tra poco scopriremo anche la massoneria cosa dice tra due ore. E con Daitan vi devo salutare, vi mando un abbraccio. Ciao, grazie a tutti, sì, nuovo Affari Italiani in rete da oggi. Come Daitan. Daitan, per noi tu sei davvero forte, per noi tu sei davvero grande, evviva Daitan Freire. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti. Eccoci qui, cari ascoltatori. E voi ci siete? Mi raccomando, scriveteci se volete al 349-238-6666, siamo pronti ora a leggere il giornale, vogliamo parlare più tardi alle 8:15 di quella che è la situazione sociale in varie città italiane. Sapete che c'è stata un raid addirittura contro le

per raccontare che ci sono delle tensioni sociali, però il dato di fatto è che oggi ci vogliamo interrogare sui vari episodi di violenza che si stanno verificando sempre più frequentemente nelle nostre città. Ormai diversi giornali anche si interrogano su quello che sta succedendo, soprattutto nelle grandi città, dal punto di vista della tenuta sociale. Per esempio, la scorsa settimana abbiamo parlato delle case occupate, puntate molto seguite a Milano, ma anche a Roma ci sono le case occupate, ci sono in tutta Italia. Ebbene, due giorni fa è successo che a Milano c'era una riunione di un gruppo di inquilini di case popolari, per lo più settantenni, anziani, erano in un circolo del PD. All'improvviso arrivano 20 incappucciati con lo striscione "non tirare la cinghia, tira le pietre" e assaltano con fumogeni questa riunione di condomini settantenni, imbrattando di vernice i muri, con gli anziani che si calano dalle finestre, alcuni vomitano, alcuni devono ricorrere all'ambulanza. Perché? Perché questi incappucciati dicevano "le case occupate non si sgomberano". Prima i cori, assassino, vergogna, razzista, poi le sassate e due attivisti investiti dall'auto. E poi c'è, vabbè, la vicenda Salvini, la conoscete, a Bologna, l'assalto degli antagonisti, la macchina che va via, l'accusa tentato omicidio, la macchina che viene sfasciata. La visita di Matteo Salvini al campo nomadi di Bologna non era ancora cominciata. Alcune centinaia di giovani, intanto vi vogliamo documentare anche quanto sta accadendo a Bologna proprio in questi minuti, giovani dei centri sociali. Giovani contro Visco, Banca Italia a Bologna, ma anche ieri c'era Draghi a Roma e c'è la contestazione sociale. E poi, ma cosa sta succedendo a Tor Sapienza? Vi rendete conto, la periferia est di Roma? Italiani contro stranieri da tre notti. Tor Sapienza, quartiere sud-orientale di Roma, si respira ancora l'atmosfera della sera prima, la rabbia è contenuta a stento. Questo succede nelle nostre città, sta succedendo in questi giorni, 14 feriti a Tor Sapienza con gli italiani che dicono "ci faremo giustizia nei confronti degli stranieri qui". Cioè, non è uno scenario di guerra, avviene in una normale giornata da alcuni giorni in varie città italiane. Allora noi ci vogliamo chiedere, ma la politica si rende conto di quello che sta succedendo o è solo impelagata a parlare del patto del Nazareno e della legge elettorale? Intanto questa domanda la voglio fare a un senatore del PD, Stefano Esposito. Buongiorno senatore. Buongiorno. Un senatore che per la sua manifesta apertura nei confronti della TAV, una posizione che peraltro è cambiata di recente, magari vedremo, è stato minacciato, insultato, insomma vive una vita abbastanza blindata. Senatore Esposito, se si rende conto la politica che questo è il paese reale oppure no, secondo lei? Guardi, la sensazione mia, siccome sono, mi definisco un antesignano di questa situazione, secondo me non è percepita fino in fondo da tutto il quadro politico. Tenga conto che intorno a questa vicenda c'è da tener conto che siamo di fronte ad una delle peggiori crisi sociali e occupazionali di questo paese. Fino in fondo secondo me non c'è la consapevolezza che questa situazione può essere facilmente utilizzata da pezzi di mondo antagonista, pararivoluzionario, come li chiamo io, che trovano facile presa in alcuni segmenti del paese. Io le faccio l'esempio di Milano, perché mi sono un po' informato dopo l'assalto al circolo del PD, poi credo che nelle prossime ore ci saranno anche delle notizie da parte della questura, ma pare che fossero tutti ragazzi molto giovani, questi incappucciati, che probabilmente sono stati stimolati in questa loro azione da qualcun altro, e questo qualcun altro con ogni probabilità è legato al giro dei centri sociali milanesi. Sì. Ecco, bisogna tener perché conto... dice qualche novità, nel senso che li avrebbero identificati, secondo lei? Ma dalle informazioni che avevo ieri mi dicevano che del gruppo dei 20 tre erano già stati identificati, però sta lavorando la questura, ma che di fatto non si tratta di persone con un substrato politico, culturale, no? Ideologico, ma di ragazzini, cioè di truppa che è stata mandata a fare questo assalto. Nell'ambito dei centri sociali. Comunque lei dice la situazione è una situazione che effettivamente è difficile, e la politica non si è resa ancora perfettamente non conto. Non c'è piena consapevolezza di questa cosa. Allora, guardi, me lo faccia chiedere anche all'altro ospite che voglio salutare, introduco, uno che posso dire nato e cresciuto a pane ai centri sociali, Francesco Caruso, ex deputato, oggi ricercatore all'Università di Almeria in Spagna. Buongiorno Caruso, ben ritrovato. Salve, buongiorno. Va bene, è cresciuto a pane ai centri sociali, sì, non è... Sì, io sarei uno di quei mandanti, appunto, che strumentalizza i ragazzini di 20 anni. No, lo dico sinceramente, nel senso che io credo che esista una generazione che sono, appunto, questi ragazzi, queste nuove generazioni che si affacciano oggi al mondo post-adolescenziale, scoprono le ingiustizie, guardano sotto i loro occhi una condizione di precarietà e di disoccupazione che l'attanaglia, e cercano di mettere in campo delle risposte sconclusionate, controproducenti. Io lo chiamo autolesionismo militante, perché molto spesso fanno male a loro, come appunto sia sul corpo come ferite, come pedina penale, ma anche al movimento in generale. Il fatto è che non esiste altro oggi nel campo dell'azione politica. E quindi rimane la protesta. No, ma perché le chiedo questo, Caruso? Chiaramente la violenza tutti ci dissociamo, c'è sempre questa cosa, tutti no, la violenza no. Ma lei capisce un po' queste proteste? Che Sembra niente di straordinario e inafferrabile. La sociologia politica da anni avverte e registra questo slittamento del conflitto verso forme sempre più ribellistiche di antagonismo. È una caratteristica dei regimi rappresentativi post-democratici nei quali ci stiamo infilando ormai a piene mani. Cioè una risposta a questa politica. Il riot delle banlieue parigine, il riot americano, quel modello appunto che prevale rispetto invece alla nostra tradizione, diciamo, che è quella del conflitto sociale organizzato attraverso corpi sociali intermedi, attraverso appunto strumenti di democrazia anche radicale. Penso appunto all'esperienza dei centri sociali. Sì, ma dovuto a che cosa, Caruso? Cioè lei dice non, la politica non dà risposte, il sistema non dà la possibilità di avere lavoro, di avere quindi una frangia di popolazione reagisce così? No, esiste. La politica ormai è semplice, espelle continuamente istanze, soggetti e cittadini per accentrare in modo collusivo il potere politico. Svuota quindi istituti di partecipazione, corpi sociali, ma ideali, passioni, rimangono in campo dei gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e una massa di cittadini sempre più passiva, apatica e anche, diciamo, per certi versi legittimamente schifata dallo spettacolo della lotta elettorale. Quindi in questo vuoto qualcuno reagisce così. È evidente che soprattutto le giovani generazioni, quelle che si trovano davanti un terreno che diciamo martoriato dal punto di vista della costruzione possibile di altri spazi, vanno direttamente al cuore del problema, pensano di risolverlo attraverso contestando Draghi, contestando Visco, ma è interessante, però siccome c'è un senatore, voglio dire, Esposito, lei che in questi settori, su questi argomenti si è molto cimentato, l'argomentazione di Caruso magari può essere per lei scivolosa, però a dire è l'assenza di politica, l'assenza di risposte, anzi la politica che, come dire, tende a buttare fuori tutte queste istanze sociali spesso per concentrarsi su cose che magari per il popolo non sono così fondamentali, a generare quel brodo di cultura che poi degenera così in alcuni casi. Esposito. Ma sicuramente un pezzo d'analisi che fa Caruso è realistica. Io però mi domando, e lui tende però poi a giustificare in qualche modo che la reazione sia quella che stiamo vedendo, ma non da oggi peraltro, perché guardi, questo fenomeno è un fenomeno che si è man mano cresciuto. Poi bisognerebbe separare i diversi aspetti, cioè quelli che vanno a contestare Draghi, Visco, che assaltano Salvini perché lo ritengono un... ogni vicenda è diversa. Ogni vicenda è diversa. È evidente che però Caruso dovrebbe rispondere a una domanda. È logico e democraticamente accettabile che di fronte a delle ingiustizie, di fronte al fatto che la politica si rinchiude nei palazzi, che tende a non dare risposte, perché guardi, la risposta principale di tanti di questi giovani è che non hanno una prospettiva di vita, non hanno un lavoro, sia quella di andare ad assaltare i circoli del PD piuttosto che ritenere corretto l'occupazione delle case, che peraltro voglio segnalare, ogni casa popolare occupata in maniera abusiva, sì, significa toglierla a centinaia di migliaia di persone che stanno nelle regolari graduatorie e che non vanno ad occuparle. Sì, tra l'altro io volevo segnalare una cosa che magari non è stata ancora molto diffusa, anche se le agenzie l'hanno data, di ieri sera. Ieri sera alle 21 a Castellanza, in provincia di Varese, è stata assaltata una sede del PD con svastiche segnate sui muri, simboli nazisti, insomma, e chiaramente ci si inquieta un po' perché arriva a 24 ore da quell'altro assalto. Però prima di andare in pubblicità, effettivamente, Caruso, le chiedo, l'occupazione di una casa è giustificabile in qualche caso? È molto più che giustificabile e rientra nella storia di quella esperienza di emancipazione delle classi subalterne che passa per le occupazioni delle fabbriche, le occupazioni delle terre. Capito, i nostri nonni che non avevano da mangiare hanno occupato le terre. Ma l'emancipazione attraverso l'occupazione di una casa, se che io le racconto, cioè, quello che avveniva negli anni 50 in quei paesi dove si occupavano le terre, si vendevano i bambini di 15 anni ai garzoni, per fare i pastori, c'era un mercato vero e proprio, le invito appunto a leggere il libro di Elisabetta Landi. Questa cosa che oggi noi riteniamo orribile, probabilmente fra 40 anni, quando io le racconterò a telefono, sperando che siamo tutti e due vivi, che nel 2010 c'erano 20.000 case vuote e 20.000 famiglie in mezzo alla strada, lei si inorridirà ugualmente. Sì, ma guardi che oggi Repubblica, Caruso, racconta che ogni giorno ci sono risse tra cittadini che sono inquilini delle case, esatto, e quelli che vogliono occupare, risse tra stile Far West. Come negli anni 50 c'era il Partito Comunista che organizzava le occupazioni delle terre, quindi la violazione delle leggi, e solo grazie alla violazione delle leggi e la violenza dell'occupazione delle terre oggi non c'è il latifondo, perché altrimenti stavamo ancora con i latifondi e i latifondisti. Sì, ma uno che è un legittimo occupante di una casa popolare che si vede degli invasori in casa, cosa dovrebbe fare? Cioè, esatto. A dire è giusto così? Allora, è giusto così? Il povero Cristo che ha una casa o sta in lista è un discorso, il latifondista, così come il grande speculatore immobiliare che si è fatto avere in concessione attraverso le tangenti 80 milioni di metri cubi di concessione edilizia, li lascia vuoti perché oggi il mercato non lo permette. È giusto l'occupazione. Bene, a quel signore si occupa. Sì. Se vedi i movimenti di lotta a Roma oggi vanno a occupare i primati. Sì, ma quello che il timore, almeno a raccontare dalle cronache dei giornali, che è una lotta invece più tra poveri cristi, ci sono inquilini che sono stati picchiati inquilini che sono titolari, che sono stati picchiati da gente che voleva occupare la casa. Come si faceva negli anni 50, di andare a fare i danni ai piccoli proprietari che hanno mezzo ettaro di terra e litigare fra di loro per chi si prende questo mezzo. Però lei dice è molto mentre più che legittimo. Dietro ci sono 250 ettari abbandonati. È molto più che legittimo, va bene, ma ripartiamo da qui tra un attimo. 24 mattina. Allora, stiamo parlando di quella che è la situazione sociale in alcune nostre città, molte. Siamo con il senatore Stefano Esposito del PD, con Francesco Caruso, che devo dire, Caruso, molti anche su Twitter mi hanno detto: ma cosa dice? È più che legittimo occupare case, occupate la casa di Caruso, poi vogliamo vedere. Ma va bene, ci torniamo, Caruso, su questa cosa, non si preoccupi. Voglio intanto introdurre e salutare un collega, Enrico Barbetti, del Resto del Carlino. Buongiorno Enrico e bentrovato. Buongiorno a voi. Tanto come va? Come va? Perché tutti hanno raccontato quella parte di Salvini, ma a fianco e pochi minuti dopo è successo che cosa a te, Enrico? La manifestazione ormai era conclusa, io stavo lasciando il luogo della manifestazione, sono stato pedinato e aggredito da un gruppo di una quindicina di anarchici. Quindicina di anarchici, cioè uno, tu hai raccontato sul Resto del Carlino, una ti ha riconosciuto, tu sei Enrico Barbetti, esatto. Hanno iniziato gli insulti perché forse hai scritto qualche articolo in passato che era stato gradito a questa gente o gentaglia, e poi da lì insomma, come è finita? È finita, credo, con un braccio rotto intanto. È finita con un gomito rotto e il braccio sinistro ingessato, per il resto nessun altro particolare conseguenza. Direi basta così, come dire. Sì, ecco. Più che sufficiente. Come mai? Che interpretazione dai tu che vivi a Bologna, una delle città più calde, si dice, dal punto di vista delle tensioni sociali in questo momento, di quello che sta succedendo? È un momento particolare oppure ne hai visti in passato di simili? Ma anche a Bologna quest'autunno è piuttosto turbolento, manifestazioni che si concludono con incidenti avvengono spesso, tuttavia insomma gran parte delle realtà antagoniste bolognesi, che sono abbastanza numerose, abbastanza frammentate, non ci pensano nemmeno di toccare i giornalisti. E che è successo? Questa? Cioè, tu ti sei dato una spiegazione, c'era tensione per la vicenda Salvini forse, no? Che era appena avvenuta. No, ma in realtà sì, c'è tensione per la vicenda Salvini, c'era sicuramente, questo è un gruppo abbastanza marginale e violento che ce l'ha col mio giornale, con me in particolare, per vicende pregresse. Cioè hai scritto qualcosa che non hanno gradito. Sì, noi abbiamo seguito con particolare attenzione una serie di vicende che hanno riguardato il mondo anarchico, in particolare l'occupazione di un'aula universitaria che è occupata da 25 anni e che rappresenta un po' il punto di riferimento di questo mondo. Insomma, senatore Esposito, poi voglio andare agli ascoltatori che ci ascoltano. Che ne pensa di quello che ha detto Caruso prima? L'occupazione delle case è anche più che giustificabile per andare contro, che ne so, agli immobiliaristi che speculano? Ma guardi, Caruso utilizza argomentazioni che io sento da anni dalle mie parti per quanto riguarda anche altre questioni. Cioè c'è un'idea di riprodurre nel 2014 la storia italiana degli anni 50. Io credo che, siccome credo Caruso, scopro che insegna in Spagna, forse si occupa anche di sociologia, l'evoluzione della specie e quindi anche della democrazia dovrebbe essere uno dei punti centrali dello sviluppo di una società. Io credo che negli anni 50 c'erano determinate condizioni, oggi ci sono delle altre condizioni. Io sono contrario a qualunque forma di utilizzo violento per combattere delle ingiustizie. Esiste un sistema democratico in questo paese, o lo si riconosce, sarebbe interessante sapere se Caruso lo riconosce questo sistema democratico, o se invece l'obiettivo, come viene spesso, è quello di abbatterlo. Riconosce la democrazia. Il nodo poi è questo qui, perché altrimenti poi, se no, giriamo intorno al problema. Caruso, io difendo, mi permetta, sì, Mila, io difendo il diritto delle famiglie che tutti gli anni fanno regolare domanda per avere una casa popolare secondo le regole, che si mettono in graduatoria e che, seppur con che nessuno gli tolga il diritto che loro hanno acquisito seguendo le regole. Vediamo, Caruso, lei riconosce questo sistema democratico, Caruso, che si chiama Italia? La democrazia in Italia, per quanto possa essere incancrenita, per quanto possa essere deperita dalle forme di, appunto, di cartellizzazione del potere politico, è comunque all'interno della tradizione liberale. Io credo che vada inserita e ulteriormente allargata. Questo è appunto una questione dell'allungamento e dell'allargamento della democrazia, il dibattito, diciamo, contemporaneo della politologia. E come costruire l'allargamento e l'allungamento di questa democrazia? Io credo che la disobbedienza civile, la violazione delle leggi ritenute ingiuste, sì, e anche attraverso poi l'assunzione di qualsiasi conseguenza penale, sia motivo appunto di battaglia anche culturale. Ho capito, ma la disobbedienza civile, cioè, mi parla come Gandhi, ma qui c'è gente che occupa le case, perché che disobbedienza, esatto, civile c'è nell'occupare, allora, una casa? Le torno a ripetere, è molto pericoloso e contraddittorio come questione. Io occupare una casa dove c'è una famiglia o dove deve andare una famiglia altrettanto bisognosa, la ritengo un atto, diciamo, di prepotenza. Occupare le palazzine, gli interi quartieri costruiti attraverso appunto piani di regolatori. Sì. Questa invece è disobbedienza civile. Tu vieni in polizia a denunciarmi, io sono orgoglioso di andare davanti al tribunale e dire io l'ho occupata perché da 20 anni ho occupato, questo è un mafioso mazzone che ha pagato le tangenti. E quindi io lo esproprio per darlo al popolo. Vabbè, no, ma è chiarissimo questo discorso. Questo è un po' chiarissimo, un po' qualcuno lo dice un po' vetero e vetusto. Ma sentiamo Massimiliano da Latina e poi andiamo al traffico. Massimiliano, buongiorno, è caduta. Giuseppe da Modena, buongiorno Giuseppe. Buongiorno signor Milan, grazie dell'opportunità Nicchia. Che mi dà. Ascolti, no, beh, io stavo ascoltando il discorso tra Caruso e il senatore Esposito. Barbetti, che peraltro è giornalista del giornale della nostra città di Modena. Io però sinceramente sono contrario a ogni forma di violenza anch'io, però lei si mette nei nostri panni, non dei centri sociali che come da sempre sa sono un po' in lotta con tutto il mondo nostri panni di chi? Nei nostri panni di noi comuni cittadini che ci alziamo stamattina, sì. Apriamo il Carlino, qualsiasi altro giornale o anche Repubblica, leggiamo che un consigliere regionale dell'Emilia Romagna ha speso soldi nostri comprandosi un vibratore. Normale cittadino anch'io ci mancherebbe l'indignazione, mi arrabbio ma certo, ma guarda, ho letto in rassegna stampa e certo, ma fa bene indignarsi. È un'offesa, noi stamattina siamo alzati, abbiamo portato i nostri figli a scuola, ci mettiamo in macchina per cercare di vendere. Legge questa cosa e si incazza. E lei legge questa cosa. Allora, non uso la parola perché sono in diretta, ma la rabbiatura, a parte il discorso dei centri sociali, Salvini e tutto quello che ci va dietro, però cosa dobbiamo fare noi normali cittadini? Non possiamo noi arrabbiarci. Questa mattina mi verrebbe voglia di andare sotto la regione a Bologna. A protestare. Ma se lei vuole fare una protesta pacifica, una protesta legittima, lo faccia, e ci sono anche queste proteste. Il problema, forse la domanda che faceva il senatore Esposito, e ripartiamo da qui dopo il traffico, è se pur nell'indignazione, nella rabbia, nella legittima arrabbiatura, come dice lei, quando si sentono queste cose, uno poi alla fine dice, ma che faccio? Cerco in qualche modo, con il voto, votando chi penso che sia più onesto, di cambiare, ma ritengo legittimo questo sistema democratico, oppure lo voglio abbattere, e lo voglio abbattere anche con la violenza? Questa poi è la domanda base, perché l'indignazione che lei ha, che ho provato anch'io quando ho letto in rassegna stampa e l'abbiamo fatto, e che hanno molti cittadini, è assolutamente legittima per queste cose, ma sono due piani diversi. Eccoci qua alle 8:50, Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, volevo chiedere un po' a tutti, no? Sì. Che fanno analisi e quant'altro, ma hanno mai vissuto in prima persona la disperazione di una persona? Cioè, il concetto è, nel momento in cui è evidente che ci sono dei problemi, mi rivolgo a chiunque, le istituzioni, eccetera, eccetera, e non trovo risposta. Guardi, è la domanda che ho fatto all'inizio, cioè la politica, tradotta così, la politica si rende conto che il paese reale è quello. Ma la distanza poi è quella, perché quello che si racconta, adesso l'altro giorno lei parlava di... Senza dubbio, però Luca, guardi che non so, l'aggressione che è stata fatta 2 giorni fa in un circolo del PD dove c'erano 70 degli 20 inquilini di 70 anni delle case popolari, magari la disperazione la conoscono molto più loro rispetto a quelli che l'hanno aggrediti, Luca. Ma convenite con me che è una conseguenza che non giustifico, per carità, però di fronte, ripeto, alla disperazione è difficile trovare una persona che, diciamo, conta fino a 10 e pensa di reagire in maniera democratica. Lei dice la disperazione porta anche a questo, è interessante, non è che voglio sfumarla, ma ci sono tanti interventi, vorrei anche sentire Angelo da Roma. Grazie Luca. Angelo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, guardi, io ho chiamato proprio per il discorso lì che sta succedendo a Porta Pienza. Io abito a Roma, sto lì vicino, sto in un quartiere di Mito, ho anche a che fare con quella zona, perché comunque ogni tanto vado. Ma guardi che lì la situazione è chiarissima. Lì c'è una specie di bidonville, quella è una zona di case dell'ATER, il vecchio ICP, le case popolari, che nel giro di 20 anni è stato completamente abbandonato dalle istituzioni. Lì c'è di tutto, quello lì c'è case abusive, occupazioni, gente che si vende la casa popolare che non gli spetta, traffici di tutti i tipi. Guardi che io ho paura la sera ad andare lì, cioè è una situazione talmente... E la cosa che mi lascia a me veramente... mi fa arrabbiare, mi fa veramente arrabbiare, che le istituzioni non hanno trovato un punto di... No, a parte quello che è una cosa ormai atavica. Non hanno trovato un posto alternativo per poter portare altri, scusi il termine pesante, altri disgraziati in quel posto. Cioè lei dice il fatto in una situazione già, è una situazione già difficile, perché, hanno portato tanti stranieri. A Roma, Roma è talmente grande, avrebbero potuto trovare altre alternative, altri posti. Ma guardi Angelo, lei fa una risposta che voglio dire. Come mi dispiace, cioè, fa una domanda. Qui è questo posto, è abbandonato come ci sono tanti altri posti. E a me mi fa specie che c'è gente che sta perdendo tempo. Qui si sta innescando una situazione gravissima, non si rendono conto. Lì non c'è legge, lì è un far west, è un far west. No, ma è molto chiara, ma guardi, negli ultimi tre giorni, purtroppo, anche se uno non se ne vuole rendere conto, in qualche modo gli eventi hanno e stanno aprendo gli occhi. La ringrazio Angelo. Esposito, come va con la questione TAV, con le sue minacce, con, perché lei ha cambiato idea, tra l'altro, sulla questione dei costi, dicendo che forse costa troppo e quindi forse ha cambiato idea, non è così prioritaria. Vorrei capire intanto se davvero pensa ancora che lo sia o non lo sia, e poi come va la sua vicenda personale invece. No, ma io non ho cambiato idea. Guardi, la vicenda di cui mi sto occupando è la dimostrazione che attraverso le regole e la legalità si possono ottenere esattamente gli stessi risultati che qualcuno pensa di ottenere andando a tirare le Molotov contro il cantiere della TAV. Io ho semplicemente posto una questione. Noi abbiamo definito dei costi per la Torino-Lione. Ad un certo punto le Ferrovie dello Stato hanno fatto uscire dei dati che contraddicono ciò che noi abbiamo deciso. Delle due l'una: se hanno ragione loro vuol dire che noi abbiamo sbagliato, perché io sono per realizzare la Torino-Lione, ma sono per realizzarla secondo i costi stabiliti all'inizio. Stabiliti. Se i costi aumentano di tre volte, perché di questo stiamo parlando, sono il primo io a dire che ci sono altre priorità. Però siccome la verità di questa storia, è presto credo ne avremo conferma, è che io ho messo le mani sul classico sistema italiano per cui le grandi opere partono in un modo e arrivano in un altro. Questo tutto è così. Ecco, però forse se avrò alla fine ragione io, dimostrerò in questo, con questa procedura assolutamente democratica, che si può mettere la briglia a quelli che vogliono rubacchiare e si possono fare in Italia le opere con i costi, con le i costi... opere con i costi giusti. Vede, qualcuno in queste settimane mi ha, in questi ultimi settimane mi ha scritto dicendo: no, ma lo dicevano già in ottava. Sì, ma il problema è che in ottava, al di là che non hanno mai approfondito davvero la vicenda, perché legittimamente hanno scelto un altro profilo di propaganda, in realtà per ottenere il risultato, che poi per loro è quello di non farla l'opera, e che è una cosa diversa dalla mia naturalmente, ma loro hanno usato uno strumento sbagliato. Guardi, quando Luca diceva, da Torino diceva, non c'è tanta gente che conta fino a 10 prima di... gli voglio dire a Luca che invece la maggioranza degli italiani conta fino a 2.000. Fortunatamente sono pochi. Sono pochi, e questi pochi però ormai, e dobbiamo anche dircelo con grande trasparenza, sono figli di una cultura politica che pensa di riprodurre cose che in questo paese sono avvenute in un altro millennio. Allora, fermiamoci qui. Io voglio dare ancora la parola a Enrico Barbetti, non c'è perché il tempo se no sfumo, però intanto un grosso abbraccio, ovviamente massima solidarietà per questa che è stata un'aggressione davvero così incredibile. E riprenditi presto e torneremo magari a parlare con te. Ringrazio Enrico Barbetti del Resto del Carlino, così come Stefano Esposito, senatore del PD, e Francesco Caruso, che oggi è ricercatore all'Università di Almeria in Spagna. Ci fermiamo, a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.